Il materiale di Tobias. La celebrazione del salto quantico. Taos, New Mexico. 17 settembre 2007. Con Tobias. Canalizzazione 2. Canalizzato da Jeffrey Hope. www.crimsoncircle.com. Tradotto da Carla De Mitto. E così è, signore e signori, sciaumbra giovani e vecchi, che arriviamo alla parte finale del nostro viaggio. Il viaggio che ci ha portati dall'Ordine dell'Arco fino a questo luogo che conoscete come la stazione del Salto Quantico. Stiamo per arrivare. Siete pregati di fare i vostri ultimi preparativi. Fate un respiro profondo ed assaporate ogni momento e ricordo di ogni vita, ogni persona, ogni esperienza, ogni giorno e notte e sogno che avete fatto. Fate un respiro profondo. Ed abbandonatevi alla comprensione della bellezza di ciò che avete creato per voi stessi e per tutta l'umanità, per i bambini di cristallo che verranno dopo di voi, per gli angeli di tutti i reami che verranno dopo di loro, per l'energia di tutto quello che era che vi segue, per diventare il nuovo tutto quello che è, con tutti i suoi potenziali. Allacciate le cinture di sicurezza mentre arriviamo alla stazione del salto quantico. Ci scusiamo per qualsiasi turbolenza che può esserci stata lungo la via. Il pubblico ride, Tobias ridacchia. Per ogni scossa, per ogni pezzetto mancante di binario, per ogni altro ostacolo che c'è stato sul nostro percorso. Ma vedete, questo binario si trovava in costruzione recentemente. Nessun altro l'ha mai percorso. Siete stati voi, Sciaumbra, che avete spianato il percorso per tutti quelli che verranno dopo di voi. Allacciate le cinture di sicurezza, perché mentre entrate nella nuova energia, mentre permettete che il salto quantico diventi una realtà nella vostra vita, voi assumerete il ruolo degli insegnanti e dei leaders e delle guide per gli altri. Voi sarete gli standard della nuova energia, gli standard dell'umanità. Può essere difficile da accettare, perché a volte siete inclini a guardare le cose che sono sbagliate, piuttosto che le cose che avete fatto bene. Vi guardate chiedendovi come possiate essere un esempio per gli altri, quando così tante cose sembrano esservi andate così male. Ma di nuovo, voi avete imparato per tutti. Voi siete stati quelli che hanno installato i nuovi binari. Siete stati quelli che hanno collaudato i binari per vedere quanto stress potessero sopportare e lo avete fatto bene. Risate. Molto, molto bene. Suonando nel salto quantico. Mentre entriamo in questi momenti finali della vostra vecchia energia, sottolineiamo questo momento. Onoriamo ognuno di voi con uno squillo simbolico. Beh, non abbiamo un fischietto, così useremo le campane. Con un suono simbolico delle campane per 22 volte, come nella tradizione iniziata da Saint Germain l'anno scorso. Chiamiamo in questo momento il maestro, master, del suono. Risate perché Tobias si riferisce a David McMaster per i 22 suoni. E, mentre ascoltate la risonanza di ogni suono, Virgos, per piacere, non devi contare, sarà fatto per te. Altre risate. comprendete il significato dei numeri. Il 2 è nella dualità. Il 4 entra nella nuova energia. Lasciate che ogni aspetto, ogni parte di voi che scegliete di portare avanti nel salto quantico, si unisca a voi ad ogni rintocco della campana. Ad ogni rintocco permettetevi di rilasciare ciò che non è vostro. Ciò che non è vostro è qualunque cosa che scegliete di non essere più. Potete fare questa scelta. Non dovete portare nulla che non volete portare nella nuova energia. Ma io, Tobias, il vostro conduttore in questo ultimo tratto, vi avviso di una cosa. Se scegliete di non portarlo, non verrà. Non sarà con voi. Uscirà dalla vostra vita. Se ne andrà. Onoratelo, amatelo e rilasciatelo. Maestro, prego, suoni le campane per annunciare il nostro arrivo finale. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il nostro programma di intrattenimento, risate, in questo ultimo tratto del viaggio. Le danze azteche con il ritmo, con il lignaggio ancestrale, con la rimembranza del popolo della prima nazione sulla terra. I suonatori di tamburi taiko, con il battito, con il movimento, con il ritmo. Perfino, vorremmo dirlo, è stata una piccola sorpresa preparata da Kutumi, Saint Germain e me. Speriamo non vi dispiaccia, ma speriamo che ricordiate la presentazione dei fuochi d'artificio. Vedete? È un'importante promemoria, mentre andate avanti, del fatto che vedrete i fuochi d'artificio da dietro il muretto Sciaumbra. Molte risate e applausi. Tobias ride. Vi abbiamo fatto correre là. Tobias ride. Nota. Nelle ore precedenti a questa canalizzazione c'è stata una rappresentazione tenuta da un gruppo di musicisti taiko e un gruppo di danzatori aztechi, seguiti da fuochi di artificio. Ma a causa del maltempo il pubblico ha dovuto guardare i fuochi dal parcheggio dell'hotel, invece che da un parco vicino come era stato previsto. Il parcheggio dell'hotel era circondato da un muretto. Sì, i fuochi d'artificio accadranno ogni giorno nel mondo della vecchia energia. Lo circonderanno. talvolta saranno bellissimi, come quelli di stasera. Talvolta saranno una celebrazione. Talvolta diventeranno un dramma nutrendosi del virus dell'energia sessuale. Quel virus che vorrebbe trattenervi indietro, sebbene non possa. Voi sentirete i suoi tentacoli raggiungervi di tanto in tanto, cercando di spingervi di nuovo nel dramma, nella dualità, nel suo nutrimento. In quel momento, fermatevi. Ricordate di fare un profondo respiro. Yo Ham. Voi siete Dio. Voi siete tutto ciò che è. Voi siete l'inizio, la fine e tutto ciò che sta nel mezzo. Prendete un respiro profondo quando vi vedete circondati dai fuochi d'artificio, membri della famiglia, colleghi, coniugi, talvolta perfino i vostri animali domestici. Fate quel respiro profondo e ricordate la bellissima esperienza simbolica di questa sera. Potete rimanere dietro il muretto, godervi l'esperienza senza mai essere bruciati. Cominciando la celebrazione. Per il finale, per la preparazione finale, chiederemo un po' di musica come intrattenimento. La musica può continuare quanto volete, fino a notte fonda se volete. In questo momento, attraverso il mondo, gli esseri umani stanno dormendo. Una dolce musica comincia in sottofondo, senza sapere che c'è questa cosa chiamato salto quantico della coscienza, in cui la velocità e il passo dello sviluppo della coscienza arrivano ad un punto tale di saturazione che non può più rimanere nel vecchio percorso. Cambia, esplode, procede in modo non lineare. Mentre nel mondo la gente sta dormendo, non si rende nemmeno conto che tutto questo sta avvenendo, ma i potenziali sono ancora lì per loro se lo scelgono. Molte altre persone stanno vivendo un nuovo giorno in qualche altra parte del mondo. Questo salto quantico di energia non li ha ancora raggiunti, ma lo farà molto, molto presto. Qualcosa può capitare nella loro vita che li fa fermare un momento domandandosi cosa hanno appena sentito. È la nuova energia, il salto quantico. Nella loro attuale coscienza possono non riconoscere di avere a disposizione una serie totalmente nuova di inesplicabili, indefinibili potenziali. Il mondo continua a muoversi come normalmente fa, ma c'è un nuovo ingrediente aggiunto a partire da ora, la nuova energia, una coscienza completamente nuova. Il mondo può non capire che è accaduto il 18 di settembre del 2007, emanato da questo luogo che chiamiamo Taos, New Mexico. La gente può non capire che il seme è stato piantato ed è germinato qui, proprio ora. Potrebbero passare 10 anni, forse 50 o 100, prima che guardi indietro e dica: qualcosa è accaduto, la fisica è cambiata. La spiritualità è cambiata e si è espansa. Potrebbe essere scritto tra molti, molti anni da ora. Qualcosa è accaduto da qualche parte il 18 settembre del 2007. Ma noi sappiamo, Shaumbra, noi sappiamo perfettamente di cosa si tratta. Il salto quantico, nuova coscienza e nuovi potenziali. Mentre il treno di vecchia energia entra in stazione, vi chiediamo di fare un altro profondo respiro. Stanotte il vostro sonno sarà differente. sarà diverso da ciò che avete sperimentato prima. Alcuni di voi se ne andranno molto, molto lontano. Alcuni di voi possono sentirsi agitati, incapaci di avere un buon sonno. Ma, prima di stressarvi per non riuscire a dormire, fermatevi in quel momento. Ricordate, proprio ora sta accadendo qualcosa. Qualcosa che voi avete aiutato a nutrire e a sviluppare. Qualcosa che voi avete aiutato a portare su questo luogo chiamato Terra. Fate un respiro profondo. Permettetevi di sentire la pienezza della musica che sta arrivando ora. Non la vostra musica ordinaria, non la dance music, non la pop, nemmeno il jazz. Musica della nuova energia. Tramite me, Tobias, tramite Amir, Gerard, i musicisti, Linda, Norma e Garrett, e ognuno di voi qui presente ora, noi porteremo questa energia canalizzata del salto quantico nella musica. La porteremo di nuovo a ognuno di voi e lasceremo che si irradi a tutta la Terra. Fate un respiro profondo. Dite addio alla vecchia energia. Ora lasciate fluire la musica. Rimanete sulle vostre sedie quanto volete. Coldre e Linda lasceranno lo stage fra un momento. La musica, la canalizzazione, l'energia si intensificherà per tutto il tempo che vorrete. Questa è la nostra ultima canalizzazione verbale nella vecchia energia. Vi amiamo caramente. Il treno sta entrando in stazione. E così è.